Buongiorno amico, buongiorno dell'Italia. Saluto cordiale da qui della Spagna, Romeo VI. Che te saluta e te cordializza, amico. Ok, Luciano, bien copiado. Señales 9, Radio 5, Bonita radio, bonita la radio tuya. Ok, ok. A ver, amigo Pepe de Italia, si va copiando. Ok, amigo Pepe, bien copiado, Pepe. Giuseppe. Aquí Romeo VI, Giovanni, Juan. De la sur de España, Málaga. Pepe, avanti, pochi. Ok, Pepe, igualmente, saludos cordiales, 7-3. De aquí de tu amigo Giovanni Juan Romeo VI, que te salude y te cordializa. Chao, chao. Sul canale 10, CQ canale 10, c'è qualcuno in ascolto?